Europa 24. E un saluto da Anna Migliorati. Il giorno della verità per Atene, si è concluso l'Eurogruppo e si torna a chiedere austerity. Due ore scarse sul tavolo ancora la Grecia, perché a distanza di un anno e nonostante i sacrifici e le riforme già avviate, non solo Atene stenta a recuperare un equilibrio, ma va addirittura indietro. Il debito aumenta, i consumi calano, la disoccupazione è fissa sul 24%. Ad Amsterdam l'Eurogruppo ha deciso che la Grecia deve approvare nuove misure di austerità che scatteranno se il paese ellenico non rispetterà i target di bilancio fissati per il 2015 e 2016. Il governo greco deve approvare il pacchetto e se ci sarà anche un accordo con i creditori su tutte le altre misure, giovedì prossimo si terrà un altro Eurogruppo per sbloccare gli aiuti e cominciare la discussione sul debito, ma niente taglio, solo un riscadenzamento. Questa è la posizione anche della direttrice dell'FMI, Christine Lagarde. That, as I said, will not require any haircut. Archiviato l'Eurogruppo si aprirà l'Ecofin. Qui si parlerà del rischio dei titoli di Stato in pancia alle banche. La presidenza olandese ha presentato un documento con alcune opzioni, tra cui aumentare il rischio, porre un tetto, oppure un mix graduale di entrambe le ipotesi. A favore Berlino, che si fa forte di una timida apertura, in questo senso arrivata ieri dalla BCE. L'Italia invece si oppone a qualunque limite. Banca Italia ha sottolineato che un tetto ai BTP farebbe salire i rendimenti. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il commissario europeo Avramopoulos sta facendo preparare una nuova lettera per il governo di Vienna, con cui si chiedono maggiori dettagli su quanto si intende fare alla frontiera del Brennero. Il documento dovrebbe essere inviato nelle prossime ore, mentre domenica l'Austria andrà al voto. E intanto la cancelliera tedesca Angela Merkel, il primo vicepresidente della Commissione europea Timmermans e il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk saranno domani in Turchia. Visiteranno alcune strutture per i profughi siriani, progetti finanziati sia dall'Unione che da Ankara. Poi incontreranno il premier Davutoglu. Stesso impegno sul fronte del Mediterraneo per l'immigrazione che sul fronte balcanico, torna a chiedere intanto l'Italia. A farlo il ministro Gentiloni, che dice: vanno rese sempre più europee le operazioni di rimpatrio dei migranti nei paesi sicuri, non certo in Libia. E il governo italiano chiede all'Europa un impegno che sia altrettanto rilevante di quello che ha messo in campo sulla rotta che dalla Turchia va verso la Grecia. Tra due mesi, il 23 giugno, il voto per la Brexit. A Londra è arrivato anche il presidente americano Obama con un obiettivo: convincere i britannici a restare in Europa. L'Unione Europea non mitiga l'influenza britannica, la esalta, non minaccia la leadership globale della Gran Bretagna, la cresce. Insomma, amici inglesi, restate in Europa. Più chiaro di così, Barack Obama non poteva esserlo. È a Londra il presidente americano per i 90 anni della regina Elisabetta. Fa capire subito, senza giri di parole, il suo pensiero sulla permanenza o meno del Regno Unito nell'Unione Europea, tema che sarà oggetto di referendum il prossimo 23 giugno. Messaggio nettissimo in cui Obama cita i vantaggi economici del legame di Londra con Bruxelles e anche quelli di una più efficace lotta al terrorismo. Centrare il tema della difesa europea. Having the United Kingdom in the European Union gives us much greater confidence about the strength of the transatlantic union. Che il Regno Unito sia all'interno dell'Unione ci dà maggior fiducia nella solidità dell'Unione transatlantica. Insomma, questo per i nostri amici e alleati europei è il tempo di restare uniti. L'inquilino della Casa Bianca riconosce che spetta agli elettori del Regno Unito decidere sulla questione, ma rivendica il diritto a dire la sua in nome del profondo interesse degli Stati Uniti all'esito della consultazione di giugno. Ma gli euroscettici lo contestano. Il capofila Boris Johnson lo accusa di sconfinare nel terreno della sovranità decisionale britannica. Per il premier Cameron, impegnato nella battaglia referendaria in favore dell'Unione Europea contro una parte del suo stesso governo, è invece importante ascoltare il parere di Obama. Così scrive in un tweet: gli Stati Uniti, ricorda, sono uno dei nostri alleati più stretti. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore. Il Tribunale europeo conferma la decisione della Commissione europea che ordina il rimborso delle esenzioni fiscali concesse da Italia, Francia e Irlanda a favore della produzione di alluminio. Nella sentenza i giudici affermano che Bruxelles ha applicato correttamente le norme in materia di aiuti di Stato. Per l'Italia il caso è quello di Euroalluminia in Sardegna. Ma ci fermiamo qui per ora con lo spazio europeo, ma vi ricordo come sempre l'Europa vi aspetta questa sera a Effetto Notte. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.